Si sbaglia sai, quasi continuamente sperando di non farsi mai troppo male. Ma quante volte si cade? La vita sai, è un filo in equilibrio e prima o poi ci ritroviamo distanti. Davanti a un bivio ed ogni giorno insieme per fare solo un metro in più ci vuole tutto il bene che riusciremo a trovare in ognuno di noi. A volte poi basta un sorriso solo a sciogliere in noi anche un inverno di gelo e ripartire da zero, perché non c'è un limite per nessuno che dentro sé abbia un amore sincero. Solo un respiro, non siamo angeli in volo venuti dal cielo, ma gente comune che ama davvero, gente che vuole un mondo più vero, la gente che incontri per strade in città. Dove vedrai, ci sarà sempre un modo dentro di noi per poi riprendere il volo verso il sereno. Non siamo angeli in volo venuti dal cielo, ma gente comune che ha